Sei. Mef, Ghetto Record Studio. Bine, sì. Rata down, part l'equipe. Ok, hit, troppo in grip. Tra rap, pop, e sleep. Rap, seri, steri, sterica. Ca metrica, che manna in frevo. Per chi caccia l'elite. D'elite, subit. Devastamento in mente, ca mai shit. Attendamento in onda, coi son, chi non si street. Lo sotto sull'ango petit. Prima te solo, per tu console, si stia afflit. Mef, big animal. Cagna storia e stamina tra flotte e conflitto. Affrontando le che fate ca fotte. Perché manna a casa 4-4 e cheat. Ne manna fotte e fa fora. Tengo metrica che manna fora. Ha vinto un anno in danarissa e ci facette fora. Rischia io carcere 20 anni ma mo stonga fora. E allora arriva fino a fine. Voglio l'Italia mi copodi. Non mi basta posto prima. Mo cosa accuse minima che mo te inchina. Perché non futto King Irpina. La tagisce ne che inciuci curtellata fino a fine. Sento la botta, solita entrata. Mi sento con la solita gente malata. Mi tento con la nuova merce comprata. E mi stendo mettendo la mia musica dannata. È la solita scappatoia. Cerco sia via di fuga che scorciatoia. La mia parola contro le tue. Se non ci riesci dillo parole sue. Vieni a nome di altri. Dimmi che stai coi grandi e dimmi questi problemi da quanti anni. Testa chinata, la penna consumata. La mia parola contro la mia bocca è passata. È la solita frenata. Azioni e reazioni e dare spiegazione è la menata. La tua ragazza l'ha pagata cara. È vita privata, impara.